7. Ascolta e controlla. 1. Prima di pranzo leggo il giornale. 2. Dopo la lezione mi fermo in biblioteca. 3. Perché non restate ancora un po' prima di partire? 4. Chi aspettiamo? Chi arriva dopo cena? 5. Non sono potuti entrare prima dello spettacolo? 6. Maria e Giada sono tornate a casa dopo aver visto il film. 7. Luisa partirà dopo aver finito questo lavoro. 8. Puoi chiamarmi prima di salire in treno?